meccanismo è logico. Volerti quando non mi vuoi, rincorrerti se te ne vai, vai, vai. E poi siamo di nuovo punto e da capo, di nuovo a leccarci le ferite che sono micce accese come dinamite. Fuoco di paglia, ti accendi ma ti spegni appena sai di avermi. Tu non puoi fare a meno di me, se vuoi te lo dimostro anche subito, perché lo sai che io sono in fondo matta, sono una tigre ferita, una chiave smarrita. C'è chi sbaglia e chi non sbaglia mai, c'è chi perde e chi non perde mai, ma ora sono io, non ti voglio più, voglio stare da sola, godermi sta vita. E adesso chissà dove sei, in quale letto dormi già, non sarebbe una novità. E tu lo sai, sei come il vento, soffi sempre sul fuoco e non ti arrendi anche se è finita. Una partita non può essere infinita, diamoci un taglio. Adesso sono io che termino.